Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Piemonte, imprese e tradizioni, di Andrea Ferro. Anche oggi più storie a comporre alla fine una storia unica, quella scritta da imprese fortemente radicate nel proprio territorio a esprimere tradizioni produttive consolidate nel tempo, nelle intuizioni, nella voglia di fare. Tre testimonianze tratte dal Giro d'Italia di imprese vincenti. L'iniziativa promossa da Intesa San Paolo per valorizzare le piccole e medie imprese. Questa volta il Digital Tour ha fatto tappa a Torino. Il primo racconto arriva da San Mauro Torinese, dove ha sede Ferrino, azienda specializzata in outdoor, dal campeggio alle attrezzature per la montagna, con 150 anni di storia. Augusto Rabaioli è l'amministratore delegato. Nasce da, diciamo, un'idea del fondatore Cesare Ferrino, che in sostanza trova un modo per impermeabilizzare i tessuti e quindi applica questa formula su quelli che erano poi le esigenze di allora, quindi essenzialmente teloni per carrozze. Il discorso si è evoluto verso già le tende per uso anche militare, pensiamo lì chiaramente alla Prima Guerra Mondiale. Negli anni 60 la svolta arriva con la voglia di montagna, da vivere e scoprire, un fenomeno di costume che orienta le rotte turistiche. Un'altra svolta importante è stata poi negli anni 80 avanzati, quando abbiamo cominciato a fare sacchi a pelo, zaini e quando è nata la tenda, diciamo così, a cupola, quindi con forma geodetica, leggera, adatta anche per fare viaggi in posti lontani, sia spedizioni alpinistiche, quindi da lì collaborazione con Reinhold Messner. È stata una svolta molto importante, un allargamento dei prodotti, cura del prodotto, qualità, leggerezza, affidabilità. C'è stata chiaramente un'evoluzione molto, molto spinta verso questi concetti, soprattutto di leggerezza. Oggi Ferrino fattura 21 milioni con una sessantina di dipendenti. Abbiamo anche però un settore di vendita, diciamo, dedicato agli enti pubblici e in particolare per la protezione civile, dove facciamo tende di grandi dimensioni che sono utilizzate per le emergenze in giro per il mondo. Ecco, la nostra clientela lì sono agenzie internazionali dell'ONU e altri enti di questo tipo. E il settore militare anche. L'export l'anno scorso è stato il 50%, quest'anno un po' meno, quindi siamo intorno al 40%. Ora a Pollone, un paese di 2000 abitanti a pochi chilometri da Biella, per raccontare una storia iniziata quasi 400 anni fa. È la trama di vita, di lavoro e di famiglia di Piacenza Kashmir. A raccontarcela è l'amministratore delegato Carlo Piacenza. Nel 1623 abbiamo i primi documenti dove eravamo commercianti in lana. Naturalmente agli inizi del 600 non esisteva il concetto di industria, e quindi era più una raccolta di lana, e poi venivano conferite le lane presso le famiglie. Abbiamo sempre avuto la fortuna, io lo dico quando mi chiedono, ma come avete fatto 14 generazioni, e che abbiamo sempre avuto un leader per ogni generazione, forse fortuna, forse anche un po' educazione. Più che creare il reddito diventa proprio un principio di tramandarsi le tradizioni, e questo credo che sia stato uno dei fattori fondamentali della nostra longevità. Qualità del prodotto, ricerca dell'eccellenza, originalità sono i punti cardinali sui quali nel tempo si è orientata l'attività di Piacenza Kashmir. L'azienda oggi fattura 53 milioni con quasi 260 dipendenti. Ci siamo specializzati nell'utilizzo di materie prime di nicchia, noi le chiamiamo materie prime nobili, tutte di fibra animali, e quindi dai cashmere alle alpaca, le vicugne, i mohair, la seta, magari anche mischiati fra di loro, quindi è stato anche proprio una delle nostre peculiarità saper identificare per ogni fibra il meglio e quindi nella loro miscela ottenere i tessuti più belli, più stravaganti, più preziosi. E anche perché credo che è una prerogativa assolutamente italiana quella dell'eccellenza, del fare delle cose di nicchia ma di altissimo livello. Oggi in Italia non esiste più fare delle commodity, non è più il posto per fare delle commodity, diciamo forse il posto dove costa più al mondo produrre. Quindi cos'è che ci rimane? Ci rimane questo grande estro DNA che ci portiamo dietro, io penso, dal Rinascimento, nel saper fare le cose, delle cose belle e fatte bene. Il discorso di sostenibilità ci sta aiutando moltissimo, perché sostenibilità vuol dire tracciabilità e vuol dire trasparenza nelle cose che si fanno e nelle cose che si dicono. È tutto certificato dalla balla che arriva dalla Cina piuttosto che dal Perù fino alla consegna del tessuto. E ora una tipica fabbrica del design italiano che ha sede a Pella, sulle rive del Lago d'Orta. È la storia di Fratelli Fantini, iniziata nell'immediato dopoguerra e oggi un marchio prestigioso della rubinetteria. Daniela Fantini è l'amministratore delegato dell'azienda, che ha un fatturato di 34 milioni con 110 dipendenti. Inizia nel 1947. In pratica i due fondatori sono mio papà Giovanni e mio zio Fino. È una storia molto bella, un po' classica, diciamo, delle aziende italiane. La caratteristica di questi due fratelli era quella che loro amavano le sfide. Loro volevano fare le cose che altri non avrebbero voluto fare, magari perché troppo complicate, troppo rischiose. Sono stati anche i primi a, diciamo, poi decidere che ormai il rubinetto entrava nell'ambiente domestico, quindi lo si poteva cromare, c'era quella strada, quindi a mettere il bagno galvanico col cromo, puntare sui rubinetti colorati che da loro erano ritenuti più ecologici. Diciamo che sono stati sempre portati per la passione di un qualche cosa che prima non esisteva. Nel 1977, dalla fantasia e dall'irrequietezza imprenditoriale, prende forma un prodotto che segnerà il futuro dell'azienda, il primo rubinetto colorato. Da quel momento, le prospettive di Fratelli Fantini decolleranno. Noi siamo un'azienda che tiene particolarmente alla qualità nello sviluppo e non alla quantità. La nostra prospettiva principale riguarda i mercati esteri, anche se noi consideriamo che un'azienda, una fabbrica del design, come ci riteniamo, inizialmente deve misurarsi col mercato nazionale. Per noi il mercato italiano è sempre stato un po' la palestra, il punto di riferimento, quindi grande attenzione e grande presidio qualitativo sul mercato nazionale, però come un po' per tutte le aziende lo sviluppo maggiore si vede nei mercati esteri. Abbiamo una buona base e anche una bella prospettiva futura sul mercato degli Stati Uniti, dove diciamo siamo un po' arrivati in un momento in cui i designer, gli influenzatori apprezzano un tipo di design pulito, minimale, un po' come può essere il nostro, fatto un po' per durare nel tempo e non di una moda. E ora nel cuore di Torino, dove ormai più di 100 anni fa sboccia un'altra storia di impresa. È quella di Fiorentini, azienda alimentare oggi in grande crescita. Fattura 87 milioni con 250 dipendenti. Simona Fiorentini, rappresentante della quarta generazione, è la responsabile marketing. La nostra storia inizia nel 1918 con il mio bisnonno che apre un piccolo negozio di specialità alimentari nel centro di Torino. Prosegue con mio nonno negli anni 50, che era una persona molto curiosa e inizia ad importare dall'estero specialità alimentari, quindi prodotti particolari, e a rivenderli sempre nel nostro negozio alla borghesia torinese. La prima vera svolta, diciamo, nell'attività di famiglia avviene negli anni anni 70 con l'avvento di mio padre Roberto, seguito poi da mia mamma Adriana, che trasformano proprio l'attività da vendita al dettaglio a commercio all'ingrosso di generi alimentari. Da lì l'acquisto di un primo magazzino di distribuzione, il passo è stato breve, per cui i miei genitori iniziano a distribuire questi prodotti anche presso rivenditori terzi. Mia mamma ha l'intuizione di creare proprio il marchio Fiorentini, per cui si inizia proprio a distribuire i prodotti anche col proprio marchio. Nel 2002 per Fiorentini è la svolta, da venditori a produttori. Si inizia la produzione di gallette di cereali soffiati, che prima già si importavano dall'estero, ma dal 2002 si inizia proprio a produrli. Si parte con alcune gallette di cereali soffiati, dopodiché si passa a nuove linee, agli snack, e piano piano la produzione è sempre incrementata fino ad arrivare ai numeri di oggi. La nostra è un'azienda familiare, l'impronta familiare si sente all'interno dell'azienda, in quanto la vogliamo considerare un po' come una grande famiglia. Ogni membro della famiglia ha in funzioni diverse all'interno, però stiamo cercando anche di managerializzarci proprio per poter crescere ulteriormente. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.